e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qui, è arrivato il grande giorno. Deborah, buon Natale! Buon Natale a tutti, buon Natale a Nicoletta. Siamo davvero in un'atmosfera incantevole, a dire poco. L'albero è pieno di decori, ghirlande. Finalmente abbiamo messo anche la statuina di Gesù Bambino, certo, nel presepe. Il suo giorno è nato. E abbiamo già aperto la porta ad un grande amico che oggi è venuto a trovarci per rendere davvero unica e speciale la nostra giornata. E allora, scateniamo subito la curiosità dei nostri ascoltatori. Chi è venuto a far Natale con noi oggi? Credetemi, non potevamo avere un ospite più adatto alla celebrazione odierna. E per presentarvelo vi facciamo ascoltare la sua personale composizione natalizia. Natalizia. Lo so, lo avete riconosciuto tutti perché la sua musica è inconfondibile, il suo tocco è magico. Quello che stiamo ascoltando insieme oggi, in questo Natale che festeggiamo a Cuore Denari. Il primo Natale di Cuore Denari. Il primo Natale, stiamo ascoltando Christmas for You, l'inedito presente nel CD natalizio appena pubblicato da Giovanni Allevi. Giovanni, buon Natale! Grazie, buon Natale a tutti voi, buon Natale ai radioascoltatori. E grazie davvero per l'invito, sono davvero onorato di essere qua. Tu sei il nostro regalo di Natale e tu sei l'ospite anche per eccellenza di Cuore Denari, sei marchigiano come Deborah. Hai visto? Ti fa piacere questa cosa naturalmente, sì. Un bel regalo di Natale per te. È meraviglioso. E certo, fra un po' ci appendono su qualche cartello alla stazione centrale di Milano come testimonial, ma lui è molto più famoso di me, per cui più meritatamente lo farebbe. Però sarai fiera di condividere le stesse radici. Certamente, io e Giovanni condividiamo le stesse radici e andiamo particolarmente fieri, ma ancora di più oggi che è Natale, che Giovanni appunto è tra di noi. È un ospite molto cuore, perché? Anche molto cuore, lo sanno bene i nostri ascoltatori, perché con Giovanni abbiamo, proprio partendo dalla sua musica, spesso approfondito e parlato di molti temi che hanno a che fare con la nostra vita, il nostro modo di intendere la vita, di ascoltare la vita, direi il nostro proprio benessere a tutto tondo. E allora glielo chiediamo subito. Giovanni, tu ti senti più un uomo di cuore o un uomo di denari? Nella tua vita d'artista, affermatissimo a livello internazionale, ti sei mai trovato in difficoltà nel dover conciliare queste due dimensioni, il cuore e denari? No, perché io sono un artista di cuore, di questo vado molto fiero. Cerco di dare tutto me stesso senza chiedere nulla in cambio. Se dovessero arrivare dei denari sono contento, però non esiste ricchezza più grande che l'affetto del pubblico e l'emozione che la musica mi regala, quindi va bene così. Va bene, tutto cuore, i denari se ci sono fanno piacere, infatti. Ma non sono tutto nella vita. Ma oggi noi lasceremo in parte tutti gli affanni fuori dalla porta, Giovanni. Oggi parliamo solo di cose belle, una cosa non bella ma bellissima è il dono di Natale che tu ci hai portato oggi, di cui abbiamo già ascoltato un breve estratto, un CD di musiche natalizie intitolato Christmas for You. Giovanni, che cosa ti ha fatto nascere l'idea di questo progetto? Io ho un bimbo di un anno e pochi mesi che si addormenta ascoltando, abbracciato ad una pecora di peluche che produce una musica, di una musica di pianoforte che io trovavo insopportabile. Allora ho voluto riregistrarla per lui, perché aveva questo suono tipo suoneria del cellulare. Non capisco come si faceva ad addormentare. Allora, quindi l'idea era stata appunto quella di interpretarla di nuovo con il suono di un pianoforte vero, che ho fatto modificare proprio a appositamente per ottenere un suono più dolce possibile, e da lì poi tutto il disco di Natale è uscito come conseguenza. Ha gradito il tuo bambino? Sì, fa dei bei sorrisi, così ondeggia con la testa. Lui era un po' geloso degli abbracci della pecorella. Della pecora, voleva essere lui la pecorella. Sì, è vero, sì. E proprio avere questo bambino che ti abbraccia così prima di dormire, la pecora non ha potuto farla, allora ha detto la musica, ci pensa papà. Certo, allora vediamo se adesso la canzone, il brano di Giovanni che proponiamo ai nostri ascoltatori farà loro lo stesso effetto, quello di creare un po' di benessere e di, come dire, rilassarli anche un po' con lo stesso principio appunto della musica per il bambino di Giovanni Allevi. E quindi per aiutare i nostri ascoltatori a far festa con la musica di Giovanni Allevi ne offriamo subito un secondo assaggio. Jingle Bells. Interpretato dalla sapienza musicale del nostro ospite di Natale, il nostro regalo di Natale, il regalo più bello di Cuore Denari, che festeggia il primo Natale insieme, Deborah, con certo. Giovanni Allevi. Però Giovanni, siccome è Natale, anche noi abbiamo pensato di fare un regalo a te e abbiamo chiamato in studio Alberto Pellai, non solo perché voi due vi conoscete bene, ma anche perché gli abbiamo chiesto di farti e farci un regalo abbinato alle tue musiche di Natale. Intanto potete baciarlo. Certo, lo possiamo anche salutare. Alberto, ci stai dicendo che canterai sulle musiche di Giovanni Allevi? No, non farò questo per il bene di Giovanni Allevi e di tutti gli ascoltatori, però sono molto molto felice di essere qua con voi, con Giovanni, di fare questo Natale insieme a voi a Radio 24. Ed effettivamente quando abbiamo pensato, quando Nicoletta mi ha detto ci sarà Giovanni a Natale, io ho detto ma noi che cosa gli possiamo regalare? Allora, io e Nicoletta insieme a Paola Reverso quest'anno abbiamo preparato una guida al benessere che è stata pubblicata da Kovaschi e ho scoperto che molte delle musiche di Natale di Giovanni Allevi si sintonizzavano molto bene con alcuni dei consigli che sono stati messi dentro la nostra guida. Quindi abbiamo deciso di abbinare un consiglio ad alcuni dei brani. Attento, ecco. Giovanni, perché poi appena Deborah scriverà un libro sui denari ti toccherà ritornare e poi fare un'abbinata musica. Si sono drizzati i capelli e già lui ne ha molti e quindi vi immaginate che spettacolo. Insomma, Giovanni, non ti spaventare, magari ci possiamo anche divertire con questa copiata. Ma bisogna divertirsi. E poi che bello ricevere Alberto come regalo. Non lo abbiamo neanche impacchettato, quindi anche così, nature. Non c'era la scatola. E non c'era il fiocco grande abbastanza. Ma visto che avete fatto tutto questo lavoro, io ne voglio sapere qualcosa di più. Partiamo subito con il primo abbinamento. Alberto ha scelto Oh Happy Day. E a te, Giovanni, questa canzone che cosa ispira? Perché è entrata tra le selezionate del tuo nuovo album? Beh, in realtà mi ispira molto il Capodanno, cioè non so per quale motivo, però contiene una felicità insita proprio in quelle note che ho voluto fare mia attraverso il pianoforte e spero di trasmettere insomma all'esterno. Allora poi cercheremo di capire come mai c'è questa ispirazione in qualche cosa che comincia come l'anno, però intanto sentiamo questo brano. Thank you. Io sono molto felice perché Happy Day è una delle canzoni, dei brani che mi piace di più. Meno male che l'hai scelta, Giovanni. Come si poteva non inserire Happy Day? Oddio, oddio, abbiamo bisogno tutti un po' di felicità. Alberto, come facciamo qua? Dobbiamo essere tutti più felici. In momenti come questo è un po' difficile scrivere la ricetta della felicità, Alberto. Sì, credo che però questo brano ce l'ha dentro. Probabilmente già solo ascoltandolo ti entra dentro talmente tanta luce e tanta energia che automaticamente ti trovi a dover sorridere, anche se non volevi sorridere lo devi fare. Ha una potenza, credo, che probabilmente solo voi musicisti sapete spiegare, l'alchimia incredibile quando metti insieme le note. Poi ci vengono immediatamente alla mente i cori gospel. Esatto, che mi hai tolto la parola di bocca, volevo proprio dirle, infatti, che quando la interpretano hai proprio la percezione che questa non è una canzone che cantano, ma che vivono nel momento stesso in cui entrano dentro alla canzone, la indossano come un abito. Credo che però di molto bello in questa canzone c'è che ti fa sorridere, e il primo abbinamento è un sorriso che nasce dentro, sì, di pancia, che ti tira su, che è il miglior sorriso, cioè è proprio quello quando tu sei emozionato, è un'emozione positiva e vuoi comunicarla agli altri. Il sorriso è in assoluto la parola del tuo corpo che fa entrare immediatamente in empatia con la tua emozione positiva la persona che hai davanti. Vorremmo proprio invitare, grazie anche a questo brano di Giovanni, le persone oggi a sorridere, ad avere proprio un sorriso interiore. Non dimenticatevi mai che quando voi sorridete immediatamente modificate non solo il modo in cui voi vi presentate agli altri, ma il modo con cui gli altri percepiscono voi e conseguentemente cominceranno a trattarvi proprio in funzione di quello che voi state comunicando. E poi dentro alla guida al benessere abbiamo in realtà identificato molte altre caratteristiche molto positive per la salute che il sorriso ha. E infatti si è sempre detto: ridi che ti passa. Lo stesso Victor Hugo scrisse che il riso è il sole che scaccia l'inverno dal volto umano. Che meraviglia. Sì o no? Per questo un messaggio noi ci sorridiamo. E infatti la felicità è scritta prima di tutto sul volto e viene raccontata anche attraverso appunto il sorriso, i cui vantaggi sono molteplici, li abbiamo appena elencati, ma sicuramente ognuno di noi avrà avuto modo di sperimentarli sulla propria pelle. Di noi un'immagine positiva agli altri arriva, ma anche arriva, come dire, questo effetto di spingere gli altri ad assumere migliori comportamenti e a promuovere una migliore attitudine nei nostri confronti. Quindi un po' ritorniamo sullo spirito della descrizione del sorriso, certo, che ci ha dato poco fa Alberto Pellai. E tra l'altro Giovanni è una persona sorridente, sì? Ecco, questo sorriso, questa accoglienza, questo essere alla portata un po' di tutti, nonostante il successo, nonostante tu sia davvero un personaggio conosciuto in tutto il mondo, tu sei una persona che io ti vedo anche quando entri in radio, sì, e ci sono amici, colleghi, sì, che sì, ti vengono incontro per salutarti. Devo dire che tu hai un sorriso per tutti e questo tuo stupore è una cosa, è un tratto del tuo carattere che mi è sempre piaciuto e mi è sempre funzionato un po' come un massaggino al cuore, una sorta di balsamo che mi fa piacere. Mi fa piacere che tu sia restato e rimasto così. E nella tua musica, secondo Eccolo me, c'è qui questa parte ed di è te. persino timido ed imbarazzato da quello che gli... forse sì, un senso di riconoscenza nei confronti dell'affetto che ricevo. Perché comunque è bello, insomma, fare il musicista, riuscire ad esprimersi attraverso la musica, ed è davvero bellissimo pensare che ci siano delle persone che si mettono sulla tua stessa lunghezza d'onda e condividano e facciano vivere quelle note della propria emozione. Quindi grande riconoscenza, grandi abbracci, grandi sorrisi. Però no, magari con Alberto potevamo ragionare sul fatto che non è mica sempre facile. Adesso è Natale, siamo tutti simpatici, tutti buoni, tutti più belli, però comunque con una notorietà di questo peso sulle spalle non è sempre facile mantenere questa disponibilità nei confronti dell'esterno. Credo che questo sia poi il dilemma che probabilmente una persona come Giovanni deve trovare ogni giorno, in ogni incontro, per conciliare, per mettere in sintonia il personaggio che è con la persona che vuole essere, perché effettivamente quando noi lo incontriamo, gli parliamo, lo intervistiamo, stiamo parlando a un personaggio. Chi è la persona dentro il personaggio? E credo che però Nicoletta ci ha restituito proprio nelle sue parole il fatto che abbiamo come la percezione che persona e personaggio in Giovanni in molti casi si sovrappongono. Io che l'ho visto tante volte in teatro, devo dire che a me fa veramente tenerezza vedere come si muove sul palco, al di là di come suona, che è tutta un'altra esperienza. Per chi non l'ha visto a teatro, raccontaci come si muove sul ma palco. Ma guarda, è davvero, io lo trovo proprio libero, completamente libero, con tutte le sue forze, ma anche, posso dirti, con tutte le sue inadeguatezze. Non ha alcuna preoccupazione quando si muove, quando parla, di dover sembrare quello che non è, e si presenta sempre per quello che è. E questo, secondo me, credo che poi è la cosa fortissima che arriva alle persone che lo amano come una star. Il grande paradosso che alla fine sono diventato una star io, che insomma, se uno mi fa bu io mi spavento comunque. Credo che però hai detto c'è un fatto di verità in generale. Il pubblico percepisce la verità. Perché? Perché comunque il pubblico si identifica. Il pubblico va al teatro non per omaggiare il personaggio che è lì sul palco, ma per trovare se stesso. E allora l'unico modo per arrivare al cuore della gente è quello di togliere di mezzo qualunque sovrastruttura ed essere totalmente se stessi, senza aver timore di manifestare la propria fragilità, le proprie insicurezze, le proprie inadeguatezze, perché comunque ce l'abbiamo tutti. Quindi tante volte anche di fronte a un po' di impaccio, di timidezza, meglio un sorriso. Un sorriso che ci fa sentire tutti. Come quello che ci provoca la sua t-shirt oggi con Mickey Mouse, che è eccezionale. Visto? E poi lo raccontiamo dicelo. Così com'è. Noi oggi vogliamo invitare i nostri ascoltatori, e approfittiamo della presenza di Giovanni qui, sentiremo alcuni brani che ha raccolto nel suo CD, perché ci sono delle famiglie in questo giorno molto, molto felici, che riunite intorno ad un tavolo, proprio accudite dagli affetti, e possono dare tanto affetto. Ci sono anche persone per cui il Natale è un giorno che può diventare, Alberto, molto doloroso. Noi sappiamo che per queste persone magari sorridere può essere molto difficile, ma noi sappiamo che, anche le ricerche ce lo dicono, anche il sorriso, quello un po' sforzato, fatto un po' controvoglia o magari non tanto sentito perché l'umore va in un'altra, in una direzione opposta, può aiutare. Alberto? Sì, e credo, l'abbiamo tra l'altro detto proprio in una vostra trasmissione di qualche giorno fa, credo che una delle cose poi particolarmente frequenti nelle persone che hanno magari un dolore grande, che poi utilizzano un'attenzione selettiva, si concentrano solo su quella parte che le fa stare così male. Allora, grazie alla musica di Giovanni, noi oggi potremmo fare un esercizio che è proprio un esercizio di benessere. Cioè, l'invito che provo a farvi è, soprattutto se siete in difficoltà oggi, chiudete gli occhi e riscattate una fotografia dentro alla vostra mente di un momento che è stato particolarmente bello negli ultimi anni della vostra vita, un momento dove era tutto assolutamente perfetto, con quella musica dentro, con quell'immagine dentro. Fatevi attraversare dalla musica di questo CD. Ci facciamo un po' quel massaggino al cuore, Nicoletta, che indicavi prima. È un po' una coccola. E Giovanni, ti ricordi il Natale di quando eri bambino? C'è un Natale che ti è rimasto nel cuore? Sì, mi è rimasto nel cuore quel Natale in cui trovai sotto l'albero uno skateboard, che è stato un regalo molto gradito, perché pochi mesi prima io avevo cercato di costruirmene uno da solo, avevo cercato di pitturarlo e avevo sporcato delle mattonelle con la pittura, e mio padre andò su tutte le furie e me lo lanciò dalla finestra. Ancora lo vedo a mezz'aria, volando, a volare giù nel precipizio, e tutto mi sarei aspettato meno che poi mio padre me ne regalasse uno nuovo. Che bello, grazie papà. Babbo, grazie. E tu ti ha detto: guarda, fai altro nella vita, non sei tanto portato per i lavori manuali. Pensavo per lo sport. Sullo sport so che in diverse interviste tu hai confessato un po' la tua, direi, posso dire, pigrizia? Non sei proprio un grande sportivone, sarà no. Per i ricci che pesano? Certamente. No, riesco a fare delle grandissime corse mentali. Ecco, lì. Beh, lui fa un altro tipo di ginnastica, appunto, quella del talento, e infatti si vede quanto si è esercitato nel corso degli anni e nel tempo. Cuore e denari. Il sorriso funziona come cardioprotettore. La dose minima che si dimostra utile a proteggere la salute del nostro cuore corrisponde a circa un quarto d'ora. Quindi, 15 minuti di risate al giorno, intense e piene, hanno un valore comparabile a quello di mezz'ora di camminata veloce, da sempre ritenuta la dose di attività fisica minima, capace di proteggere dal rischio di infarto. Per cui, se una persona è pigra e poco propensa all'attività fisica, ecco che l'umorismo e la comicità diventano per lei un toccasana per il proprio apparato cardiovascolare di medesima potenza. E così abbiamo voluto soffermare l'attenzione sull'importanza del sorriso in questo primo Natale di Cuore e Denari, una puntata del tutto speciale, vero Nicoletta? Assolutamente, vogliamo perché... dire fate scorta di sorrisi, di affetto e anche di musica. Che soprattutto a proposito... quella di chi? Di Giovanni Allevi, che abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in questo giorno speciale, insieme ad Alberto Pellai, che è il suo regalo di Natale. Esatto, ed era proprio Alberto che prima della pausa ci ha spiegato qual è il valore del sorriso per noi, naturalmente soprattutto per gli altri, ma facendo Cuore e Denari io in questi mesi ho appreso tante cose e ho imparato che il sorriso ha una caratteristica neurobiochimica in comune con la musica, in particolare proprio con il genere di musica di cui è autore il maestro Giovanni, perché in entrambi i casi si liberano endorfine. Chi vuole rispondere? Giovanni. Io sono una persona ansiosa. Allora, ho scoperto che trovo salvezza proprio nella mia musica. Anzi, probabilmente è per quello che mi ostino a scrivere musica e a suonarla, perché credo che faccia bene soprattutto a me. Che il mio cuore ha bisogno di dimenticare gli affanni un attimo e di immergersi nel momento positivo che è perfettamente rappresentato dalla musica. Quindi insomma il momento della composizione per te è proprio terapeutico. Sì, prima di tutto per me, quindi suppongo, così per via del tutto ipotetica, che la mia musica possa avere lo stesso effetto anche sugli altri, ma all'origine di tutto sta il mio esaurimento nervoso. Alberto, è provato comunque che la musica aiuta a tenere bassi i livelli di ansia, insomma abbiamo una risposta. Il nostro organismo risponde all'ascolto attivando tutta una serie di reazioni che producono poi benessere, e quando noi diciamo endorfine, sì, sono i neurotrasmettitori del benessere, ma Alberto, c'è tutto un lavoro dietro. Sì, l'ascolto della musica ha proprio una funzione che è neuromodulatoria, neuroregolatoria. A Natale sembrano parolone pazzesche, no? Sì. Però fondamentalmente stiamo dicendo con parole molto difficili quello che poi ognuno sperimenta nella vita di tutti i giorni, cioè se tu ti senti particolarmente stanco, stressato, se tu hai bisogno di pace o di riposo, se tu vuoi rientrare in contatto con te stesso, metti sulle cuffie, ascolti la tua musica preferita e improvvisamente ti accorgi che quello che sta succedendo non sei tu che sente la musica, ma è la musica che sente te, cioè si crea una straordinaria corrispondenza tra quello che è probabilmente il circuito alchemico delle note musicali dentro a quello spartito e quello che invece è l'attivazione delle tue mappe neuronali. E a quel punto quello che scopri è che la musica ha la capacità proprio di entrare nella tua ansia e di calmarla, e per esempio è uno straordinario antipertensivo, perché proprio perché l'aumento della pressione arteriosa spesso non è il risultato dello sforzo che facciamo, ma dello stress che viviamo, con la musica giusta tu puoi rientrare in quei sistemi neuronali che si sono iperattivati sotto stress, li puoi regolare e rimodulare di nuovo. Giovanni, te l'ha mai detto nessuno che riuscivi a diventare un antistress come quei pupazzetti e poi Deborah, un antipertensivo proprio naturale, assolutamente, te l'ha mai detto nessuno? Ma, però io sospettavo di essere pieno di endorfine fino all'inverno. Allora, direi che proviamo di nuovo a sprigionare endorfine con l'ascolto del prossimo brano. Andiamo. Che dite? Perché se ci fanno così bene, andiamo. Noi ce l'ascoltiamo volentieri. Thank you. Feliz Navidad. E allora, per te Giovanni e Levi, di quali ingredienti è fatta la ricetta della felicità in un giorno come Natale? Esiste la ricetta che ti rende particolare, a parte le cose che cucinano le nostre mamme, marchigiane, insomma siamo sempre a dire le stesse cose, ma in un giorno così speciale ti prendi una pausa dalla musica? Sì, sì, assolutamente. Già comunque il fatto che è Natale già mi sento felice. E questo credo che sia la forza del Natale, no? Di farci sentire felici a prescindere. E poi mi concedo appunto questa vicinanza con la mamma che mi prepara dei piatti meravigliosi. Io sono sempre in giro, sono sempre in viaggio per lavoro, certo, per i concerti, e quindi che bello, insomma, il fritto alla scuola. Un modo peraltro anche per godersi la paternità, visto che il tuo bambino sta diventando sempre più grande, quindi immagino ci sia anche una magia speciale per questo. Sì, una grande festa per me. Dai, un po' me la merito. Se la merita, Nicoletta. Secondo me se la merita, sì, molto. Mi piace che Giovanni abbia ricordato questo il piacere che ha la sua mamma di preparargli qualche cosa di buono, perché dietro a un piatto preparato da una mamma il giorno di Natale, ma penso anche negli altri giorni meno di che non sono necessariamente giorni di festa, c'è tutto, c'è molto di più dell'attenzione, certo, dell'amore, c'è una storia. Alberto, qua era la mamma Nicoletta che passava, sì, però è venuta qua di corsa dopo aver cucinato tutta la notte della vita. Però per un figlio come Giovanni, sempre in giro per il mondo, quando la mamma lo acchiappa, certo, ma io direi che questo poi racconta molto bene anche il senso del Natale, cioè il Natale è radici, cioè Natale è la nascita, è esattamente la storia dalla quale proveniamo. In quella storia ci sono infiniti ingredienti che sono chiaramente le relazioni con le persone importanti della nostra vita, ma se ci pensi bene, per noi chiudere gli occhi e ritornare sulla scena della nostra infanzia non è sentire parole, non è vedere persone, ma è ascoltare sapori, ascoltare odorare proprio, sì, avere l'odore, il profumo, il sapore. Il nostro Natale da bambini è fatto di ricordi sensoriali, e quei ricordi sensoriali costruiscono poi o di skateboard che volano fuori dalla finestra. Qual è il profumo del tuo Natale, Giovanni, di quando eri bambino? Il fritto, ecco, lo sapevo che andava a parare lì con le olive alla scolana. Sì, sì, il fritto ascolano, misto alla scolana, che è qualcosa di meraviglioso. Che fuori onda Giovanni e Deborah ci hanno promesso, per cui se me le portano io adesso non è più fuori onda, ecco, io vorrei le dividerò con qualcuno. Con qualcuno. Però Giovanni, a proposito di bambini, tu hai iniziato una collaborazione con Save the Children, e di cui sei diventato testimonial. Ci racconti questo bel progetto? Beh sì, tutto nasce dal fatto che io, come dicevo anche in precedenza, credo di aver ricevuto dalla vita molto più di quello che abbia dato, e allora è ora per me di cominciare a fare sul serio, cioè di cominciare a dare, a ridare. Questo è il senso dell'essere libero, secondo me. Nel momento in cui si comincia a fare le cose col cuore, senza chiedere nulla in cambio, allora si diventa liberi. Lo diceva anche Immanuel Kant, il grande filosofo. Ecco, allora, cosa c'è di più bello che riuscire magari ad aiutare un solo bambino attraverso la più impalpabile ed immateriale delle arti, che è la musica? Finalmente ho la sensazione di fare qualcosa di concreto. Alberto, vogliamo commentare quanto ci ha detto Giovanni, che penso che non sia necessariamente importante essere un personaggio per dare qualche cosa. Noi, ciascuno di noi, magari riflettendo proprio a Natale, può capire la vita, no? Quanto gli ha dato, e magari trasferire un pezzetto di sé con un piccolo gesto, un'attenzione, iniziare magari un progetto, aiutare qualcuno che non deve essere necessariamente qualcuno di lontano, potrebbe essere anche solo il vicino di casa. Sì, proprio mentre parlava Giovanni, guarda, a me è proprio scorso un film nella mente, cioè le sue parole mi hanno fatto rievocare una scena del film La bella gioventù, che è proprio una di quelle che mi è rimaste nel cuore e alle quali spesso ritorno e che a volte anche consiglio ai miei pazienti. Cioè, ci sono delle zone della nostra vita dove noi sentiamo, come diceva Giovanni, che alla fine abbiamo davvero avuto tanto. A volte possiamo proprio dire abbiamo avuto tutto, cioè ci sentiamo felici. E in questa scena il protagonista dice alla donna che lo sta ascoltando che è piena di rancore ancora, è proprio piena di rabbia, la ferma e le dice: sei felice in questo momento, sei riuscita ad avere quello che stavi cercando e oggettivamente lei ce l'ha. Dice: allora è arrivato il momento di essere generosi. E credo che sia proprio una frase che un po' serve a tutti, cioè se sappiamo che la vita è stata generosa con noi, ecco, quello è il momento in cui ci possiamo permettere con libertà, riutilizzo proprio questa parola, significa davvero diventare liberi di lasciare andare un po' di quello che abbiamo e di metterci a disposizione del progetto di felicità degli altri, essere generosi. Alberto, qual è dopo questa riflessione sulla generosità, il nostro viaggio continuo, e qual è il prossimo, la prossima tappa che facciamo con la musica di Giovanni? Ma tu pensa alla telepatia, perché non avevamo saputo la storia della pecora di peluche in mano al figlio, però io mi ero proprio immaginato un uomo che nella notte di Natale addormenta il suo bambino e sceglie perciò una musica per addormentarlo, e quella musica che abbiamo scelto per poi dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori è Silent Night. Cuore e denari. Era Silent Night nella personale reinterpretazione di Giovanni Allevi, inserita in Christmas for You, e anche noi oggi con Cuore Denari stiamo facendo un Christmas for You per tutti i nostri ascoltatori, naturalmente, e insieme a noi Giovanni Allevi, Alberto Pellai, e stiamo un po' cercando di capire come renderlo più lieto, no, questo Natale, perché effettivamente, lo abbiamo raccontato anche in tutte queste settimane, è un Natale un po' difficile per tante persone, però oggi non può mancare un sorriso da parte nostra. Alberto, tu pensavi nella scelta di questo brano a un abbraccio, all'abbraccio di un papà, perché volevi dare un consiglio paterno, e noi sappiamo che gli abbracci sono terapeutici e aiutano a crescere come le ninna nanne. Io ho proprio pensato al Giovanni papà, ma ho pensato anche a tutti i papà all'ascolto, e tra le altre cose, dentro a Natale noi celebriamo Gesù Bambino, ma ci sono una mamma e un papà lì di fianco a quella culla, perché una delle cose più straordinarie che le neuroscienze hanno dimostrato negli ultimi 10-15 anni è che un papà che sta di fianco al suo neonato facilita la trasformazione del suo cervello da cervello di maschio adulto a cervello di papà, cioè la transizione da quell'uomo un po' predatore delle donne che ha a fianco, che va in giro per il mondo cacciatore a conquistarsi il salario, può davvero diventare un uomo molto più tenero, molto più accudente del suo bambino, e il segreto sta nel tenerlo in braccio e guardarlo negli occhi. E proprio uno dei momenti privilegiati è quello della Nina Nanna, un momento perfetto in cui il papà può curare il proprio bambino. Tra l'altro la ricerca dice che i papà sono ottimi addormentatori dei loro bambini, e mentre fanno questo aiutano, si addormentano tante volte il bambino, il pupo resta sveglio, però il papà tu pensa che bella ronfa. Immagine quando il bambino si addormenta sopra il petto del papà, ci sono queste belle immagini, no? Sì, Giovanni, tu sei un addormentatore? Io non credo. Sì, assolutamente, però c'è un altro aspetto che piace molto, che è il pannolino, il momento di cambiare il pannolino. Non so, sì. Che non è molto romantico, però no, perché non è romantico, invece sì. È un'immagine molto delicata. Sarà contenta anche sua moglie, esatto. Perché di solito i pannolini li cambiamo noi, e adesso mentre Giovanni loro hanno io devo fare io. Vuoi fare tu il momento? Ma è sempre in giro per il mondo, vorrei vedere quante volte lo fai nel corso dell'anno, adesso vediamo quando cosa... posso. Hai visto? Il momento pannolino è suo. E anche a Natale noi senza pudore raccontiamo di queste cose da cuore e denari. Però anche questo è importante, Alberto, perché i papà si stanno trasformando. E direi che quello che ci ha appena detto Giovanni è in realtà poi la dimostrazione del fatto che i papà possono davvero fare tutto intorno al loro neonato e intorno, vicino, in vicinanza del loro bambino, e secondo me questo è proprio il racconto di come stanno cambiando i tempi, ecco, e di come stiamo cambiando noi uomini. Siamo partiti da un brano musicale, siamo arrivati agli abbracci, all'addormentamento, passando per il sorriso. E siamo arrivati al pannolino, ma io vorrei tornare dopo il sorriso agli abbracci, perché molte persone, soprattutto molti adulti, si lamentano di non aver ricevuto abbracci da piccoli, cioè di non essere stati coccolati. E io penso che sia necessario che finiamo di lamentarci e diamo agli altri tutti gli abbracci che ci sembra di non aver ricevuto da piccoli. Quindi abbracciamoci, e anche qui Alberto mi può confermare che le neuroscienze sottolineano il potere dell'abbraccio, che è straordinario. Il contatto fisico, Alberto. Sì, c'è il contatto fisico, e poi c'è una cosa meravigliosa nell'abbraccio, cioè è l'essere contenuti nel potere protettivo dell'altro. Quindi qualsiasi emozione tu stai provando, mettila dentro di me, io divento il contenitore di quella cosa. E poi c'è braccio a braccio, dove metti il braccio, se lo metti in alto, vero Alberto? C'è tutta una teoria di cui parleremo. Ma tu guarda quante informazioni interessanti in questa specialissima giornata di Natale stiamo dando. Perché voglio preparare Giovanni, perché dopo la trasmissione Debora, io e Alberto ci abbracciamo in sequenza, tutti e quattro. Ti abbracceremo un po' per... ci carichiamo lui reciprocamente. Abbraccione è. Sì, no, sei io uno poi... di quelli avvolgenti. No, lui è un abbraccione. Io sono un abbraccione, i miei fan lo sanno, perché io alla fine del concerto mi abbraccio tutti, con un trasporto ai limiti della decenza sociale, ecco, perché non posso fare... In realtà il concerto di pianoforte oppure con l'orchestra è un momento di grande concentrazione per me, è quasi come fare un esame, e quindi poi quando è finito è liberatorio, e attraverso l'abbraccio posso manifestare la mia riconoscenza. È vero, e devo dire che Giovanni abbraccia non solamente quando è in teatro, ma anche per strada. Io ho fatto una splendida figura perché ci eravamo incontrati per caso, e io ho sentito gli sguardi delle persone vicine che dicevano: che donna fortunata! Hai visto? Ecco, e lui ha un bel abbraccio, insomma. Bellissimo, d'altronde molto alto, e quindi insomma si vede anche che fisicamente. No, anche Alberto, che è piccolo, abbraccia benissimo, eh? Ma non si dicono queste cose a Natale. Ma perché, scusami, è Giovanni che è troppo alto. Va bene, noi siamo diversamente bassi. Allora, andiamo ad altri consigli di salute abbinati ai brani tratti da Christmas for You. Alberto, cosa ci suggerisci a questo punto? Ma guarda, proprio per fare giustizia alla ricchezza e alla complessità dell'album di Natale di Giovanni, dove abbiamo sentito la gioia e la luce, per esempio, in alcuni brani, abbiamo poi sentito proprio anche il clima dell'introspezione, un po' della nostalgia e della malinconia del Natale. Io poi ce ne sono altri che sono veramente sacri, e secondo me è molto importante focalizzare in questa giornata anche un po' l'importanza di alzare lo sguardo, guardare al cielo, stare in un clima di meditazione e di preghiera anche con l'aiuto della musica. Perciò abbiamo selezionato Ave Maria. Thank you. E rientriamo da questa meravigliosa versione dell'Ave Maria, ritornando alla nostra musicoterapia. Fa paradossalmente anche rima, sì, però. Perché infatti è un brano che ci invita alla riflessione, alla preghiera, e tra l'altro, Alberto, la preghiera e la meditazione sono per un'esperienza molto simile, no? A una sessione anche di rilassamento. Sì, in generale, e questo è ben dimostrato dalla ricerca, anche in una prospettiva laica, cioè la capacità di saper fare una buona meditazione, cioè di rimanere in contemplazione, di saper stare in silenzio nel qui ed ora, è uno straordinario antidoto nei confronti di un sacco di fattori di rischio, ed è ben dimostrato dalle ricerche che hai una sopravvivenza molto più lunga e una protezione da molti fattori di rischio se pratichi la meditazione regolarmente. Poi ci sono un sacco di ricerche epidemiologiche meravigliose fatte soprattutto nelle comunità di suore, dove si dimostra concretamente che le donne che hanno fatto la scelta di consacrarsi e vivono proprio in un monastero hanno un sacco di fattori di protezione, vivono più a lungo della popolazione femminile normale. Sì, la preghiera e la meditazione hanno proprio questi effetti benefici per il nostro organismo, per la nostra salute. Ma io vorrei chiedere a Giovanni se, dato che abbiamo utilizzato i brani del tuo CD come una sorta di musicoterapia, se vuoi diventare negli ultimi minuti di trasmissione il nostro musicoterapeuta, magari suggerendoci altri brani, suggerendoli a magari dei profili particolari dei nostri ascoltatori. Allora sì, adesso che, che me lo chiedete, mi viene in mente un brano che è il Te Deum di Charpentier, che è nell'album Christmas for You, dove accanto all'esposizione della melodia seicentesca io introduco anche una ritmica molto, molto graffiante, contemporanea, hip hop, che almeno nelle mie intenzioni dovrebbe far ballare, ecco, l'ascoltatore. E quindi il ritmo inteso come corporeità, cioè il ritmo che ci muove, che ci fa, che ci fa ondeggiare con il corpo e magari ci fa scattare, ci fa saltare. Ecco, io credo che questo sia un altro aspetto, forse diametralmente opposto a quello della meditazione. Assolutamente. Che però sollecita la nostra corporeità, che non va dimenticata. No, e quindi questo è un dal musicoterapeuta Giovanni Allevi, sul suggerimento di Alberto Pellai, andiamo a un'altra selezione. Sempre in ambito invece puramente meditativo, adoro la Nina Nanna di Brahms, che ho cercato di interpretare con un pianoforte che è stato appositamente preparato in modo che potesse esprimere il suono più dolce possibile. L'ho proprio pensata proprio nella finalità appunto della Ninna Nanna rivolta al bambino oppure al neonato. L'ho sviluppata, l'ho allungata anche di più rispetto all'originale di Brahms, che mi sembrava un po' breve per ai fini dell'addormentamento. Grande capolavoro, non me ne voglia Brahms. E quindi ecco qui, questa dolcezza ho cercato di cogliere. Quindi Deborah, o ci addormentiamo o andiamo a ballare, cosa vuoi fare tu? Ah, io ballo, lo sai che ecco, sono allora sportiva, noi quindi continueremo il nostro Natale con le musiche di Giovanni Allevi. Certamente, molto meditando, volentieri. Ballando. Per smaltire un po', ma soprattutto per allietare la nostra mente da tutte le preoccupazioni, magari distaccarci un po'. Mentre Alberto, tu che farai? Io tornerò in famiglia e avrò da ballare con i miei quattro figli e poi li dovrò far addormentare. Quindi tutti i consigli. Abbiamo tutto l'occorrente. Tutto l'occorrente con Christmas for You. Grazie bene. Giovanni Allevi, buon grazie Natale. Grazie, buon Natale. Buon Natale anche al nostro Alberto Pellai. Grazie a voi. Nicoletta, buon primo Natale di Cuore e Denari anche a te. Anche a te, Deborina. Benissimo, ci risentiamo nei prossimi giorni. Buon Natale a tutti.